incontrare i fiumi, incontrare i mari per parlare di te. E scalare le montagne per parlare di te. Imparare a volare per parlare di te. E cantare una canzone per parlare di te. Shalom, shalom, shalom. E la parola diventa musica e le frasi non bastano più. Un giro tondo intorno al mondo e la guerra non c'è più. Shalom, shalom, shalom. Cercarti come l'alba cerca il fiore. Cercarti come il fiume cerca il mare. Rincorrerti veloce come fa il vento. Cercarti come l'alba cerca il sole. Cercarti come l'aria da respirare. Tu shalom, sì shalom, tu shalom. Per parlare di te. Inventare qualche cosa per parlare di te. E pagare di persona per parlare di te. Shalom, shalom, shalom. Bastano più. Un giro tondo intorno al mondo e la guerra non c'è più. Shalom, shalom, shalom. Cercarti come l'alba cerca il fiore. Cercarti come il fiume cerca il mare. Rincorrerti veloce come fa il vento. Cercarti come l'alba cerca il sole. Cercarti come l'aria da respirare. Tu shalom, sì shalom, inshallah.